Michele Taurino, Robert, solo dopo blu, a dimmi musica, dopo blu, rinda un goccio di no mare, luce amare, tanta cosa mi cagnato, rinda sta vita, mo so contente da aspettare. E prima roba mi avasa che innamorata sabata bocca vita e dinte suona circa sempre di spugna. Se tu mi piaci d'ora prima di incontrare girava nava la bacca te la trova. Sono innamorata e oggi cercate sempre a te. Eppure tu morirà, voglio m'amare. Vince l'amore, in da tutte le cose ci metto con. Mi taggate in da storia e metto cuore. Quando un numero ti chiama e ci avrimmo. Stamore che può combinare. Sul pan di noi si addavano là. Che innamorate sabato può capitare. E dinte suona circa sempre di spugna. Se tu mi piaci d'ora prima di incontrare girava nava la perché te la trova. Sono innamorate oggi cercate sempre a te. Eppure tu morirà voglio amare. Sono innamorato dopo mesi tutto cosa. Voglio bene come avere in tana chiesa. Il gatto scendesse nel saccendo innamorato. Ah, non trovo un dorme senza suono sto scedato. Come da posso mai lassare se dei sono innamorato. Tu casi caro di indastare da me cagnato. Sbatto forte, corpo, siete vega. Come da posso mai ascoltare.